Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Si è marinai o non lo si è? E che lo fossi, non avevo dubbi. L'unica parte che non conoscevo era il golfo del Siam e ne feci cenno al capitano Gilles. Non che me ne preoccupassi poi tanto. Apparteneva alla stessa regione di cui conoscevo la natura e che mi pareva di aver esaminato a fondo durante gli ultimi mesi di quell'esistenza che adesso avevo interrotto subitaneamente, così come ci si separa da una compagnia incantatrice. Il golfo, eh sì, un pezzo di mare curioso, quello, disse il capitano Gilles. Curioso, in quel caso, era parola vaga. Il tutto sembrava esprimere l'opinione di una persona prudente che si preoccupi di un'eventuale querela per diffamazione. Non mi informai sulla natura dell'asserita curiosità. Davvero non avevo il tempo. Ma proprio all'ultimo istante, egli mi diede uno spontaneo avvertimento. Tenetevi a qualsiasi costo dalla parte di Levante. In questa stagione la parte di Ponente è pericolosa. Non vi lasciate tentare per nessun motivo. Non trovereste che guai. Non capivo perché avrei dovuto essere tentato di impelagare la mia nave tra le correnti e gli scogli della costa malese, ma lo ringraziai ugualmente del consiglio. Afferrò con calore la mano che gli tendevo e la nostra relazione terminò ad un tratto con le parole «Buonanotte». Disse soltanto questo. «Buonanotte». Nient'altro. Non so ciò che stavo per dire, comunque la sorpresa me lo ricacciò in gola. Rimasi un po' soffocato, poi con una specie di precipitazione nervosa esclamai: «Ah, buonanotte, capitano Gilles. Buonanotte». I suoi movimenti erano sempre posati, ma la sua schiena s'era già allontanata abbastanza sulla banchina deserta prima che mi riavessi quel tanto da seguire il suo esempio e fare un mezzo giro in direzione del molo. Mi precipitai giù per gli scalini e saltai nella lancia. Non avevo ancora raggiunto la poppetta che il piccolo e snello natante scostò come una freccia dal molo tra l'improvviso turbinare dell'elica e lo sbuffo a scatti duri e rapidi dello scarico del fumaiolo di ottone che riluceva vagamente a mezzanave. L'indistinto rimescolio dell'acqua a poppa era l'unico rumore al mondo. La riva era immersa nel silenzio del più profondo sonno. Guardai allontanarsi la città immobile e muta nel caldo della notte, finché il repentino richiamo «Oe, lancia!» mi fece volgere di colpo avanti. Eravamo sottobordo a un piroscafo bianco, spettrale. Le luci brillavano sui ponti e dai portellini. E la stessa voce gridò «È il nostro passeggero?» «Sì!» urlai. L'equipaggio evidentemente si teneva già pronto alla manovra. Udì gli uomini muoversi di corsa. Il moderno spirito della fretta si manifestò con voce sonora negli ordini di «Vira a lasciare!», di «Ammaina la scala di Barcarizzo!» e nel pressante invito rivoltomi di «Alla svelta, capitano! Siamo in ritardo di 3 ore per voi! Dovevamo partire alle 7, sapete?» Io stavo mettendo piede in coperta, dissi «No, non lo so». Il moderno spirito della fretta era incarnato da un individuo magro, di braccia e gambe lunghe, con barba grigia tagliata corta. La sua mano magra era calda e arida. Dichiarò febbrilmente: «Al diavolo se aspettavo altri 5 minuti, in barba a tutti i capitani di porto!» «Padronissimo», dissi, «non vi ho chiesto io di aspettarmi!» «Spero che non facciate conto di pranzare», sbottò. «Questa non è una pensione galleggiante. Siete il primo passeggero che io abbia mai avuto in vita mia e prego il cielo che siate l'ultimo!» Questa accogliente informazione non diede risposta, né in vero rimase ad aspettarne, salendo di corsa sul ponte di comando per mettere la sua nave in cammino. Per tutti e 4 i giorni che mi ebbe a bordo non abbandonò quell'atteggiamento a metà ostile. Poiché per causa mia la nave era stata costretta a ritardare di 3 ore, non mi perdonava di non essere un personaggio più notevole. apertamente non lo disse, però in ogni suo discorso saltava sempre fuori quel sentimento di contrariata meraviglia. Era proprio assurdo. Era anche provvisto di molta esperienza e gli piaceva farne sfoggio, ma contrasto maggiore col capitano Gilles non era immaginabile. Mi avrebbe divertito se fossi stato disposto a divertirmi. Ma non lo ero. Ero come un innamorato che va a un appuntamento. Non mi curavo dell'umana ostilità. Avevo la mente piena della mia ignota nave, che era un sufficiente divertimento, un sufficiente tormento, una sufficiente preoccupazione. Accortosi del mio stato d'animo, poiché possedeva abbastanza acume per capirlo, si faceva maliziosamente beffe della mia preoccupazione con l'atteggiamento che certi vecchi, cinici e dispettosi, assumono nei confronti dei sogni e delle speranze giovanili. Da parte mia, mi trattenni dall'interrogarlo sull'aspetto della mia nave, pur sapendo che egli, facendo scalo a Bangkok all'incirca ogni 30 giorni, doveva conoscerla di vista. Non intendevo esporre la nave, la mia nave, a qualche allusione irriverente. Egli era il primo uomo veramente antipatico con cui avessi mai avuto a che fare. Ma allora la mia educazione era lungi dall'essere compiuta, benché non lo sapessi. No, non lo sapevo. Sapevo solo che non gli ero gradito e che nutriva un certo disprezzo nei miei confronti. Perché? Evidentemente perché la nave aveva dovuto aspettare 3 ore per causa mia. Chi ero per meritare una cosa simile? Per lui una cosa simile non era mai stata fatta. Si trattava di una specie di sdegno invidioso. La mia impazienza, mista a timore, divenne spasmodica. Come furono lunghi i giorni di traversata e come passarono presto. Una mattina attraversammo la barra e mentre il sole si alzava in tutto il suo splendore sulla piatta estensione della terra, risalimmo gli innumerevoli gomiti del fiume, tagliammo l'ombra della grande pagoda dorata e raggiungemmo i sobborghi della città. Era lì, spiegandosi ampiamente sull'una e l'altra riva, la capitale orientale che non aveva mai subito la conquista dei bianchi. Una distesa di case scure di bambù, di stuoie, di foglie, in un'architettura di natura vegetale, sorta dall'oscuro terreno sulle sponde del fiume Melmoso. Era stupefacente pensare che in tanti chilometri di abitazioni umane probabilmente non c'era nemmeno un paio di chili di chiodi. Alcune di quelle case, fatte di ramoscelli e di erba, come nidi di una specie animale acquatica, stavano aggrappate alle basse rive. Altre sembravano cresciute sull'acqua, altre ancora galleggiavano ancorate in lunghe file proprio in mezzo alla corrente. Qua e là, in lontananza, sopra la folla assiepata dei tetti spioventi, bassi e scuri, torreggiavano grandi masse di muratura, il palazzo reale, i templi, fastosi e diroccati, che si sgretolavano sotto il sole a picco, tremendo, schiacciante, quasi palpabile, che sembrava penetrare nel petto ad ogni ispirazione velenari e infiltrarsi nelle membra attraverso ogni poro della pelle. Proprio allora, la ridicola vittima dell'invidia dovette per qualche motivo fermare le sue macchine. Il piroscafo continuò lentamente a salire in deriva con la marea. Dimentico della novità di quanto si stendeva intorno a me, andavo su e giù in coperta, immerso completamente in uno stato di ansietà che era una specie di romantica fantasticheria mista ad un esame molto pratico delle mie effettive capacità. Poiché si avvicinava il momento in cui avrei rimirato la mia nave e dimostrato ciò che valevo nella suprema prova del mio mestiere. Udii ad un tratto quell'imbecille che mi chiamava. Mi faceva cenno di salire sul ponte di comando. Non ne avevo gran voglia, ma poiché pareva che avesse da dirmi qualcosa di speciale, salì per la scaletta. Mettendomi una mano sulla spalla, mi fece voltare leggermente e al tempo stesso tese l'altro braccio. «Là! Ecco la vostra nave, capitano», disse. Sentii un tuffo nel petto, uno soltanto, come se il cuore avesse smesso di battere. C'erano una decina o più di navi ormeggiate lungo la riva, e quella che egli indicava era in parte nascosta a poppa dalla successiva. Disse: «Le saremo al traverso tra un istante». Che intonazione era la sua? Beffarda? Minacciosa? o solo indifferente. Non avrei saputo dirlo. Sospettai che in quell'inattesa manifestazione di interesse si nascondesse qualche malizia. Mi lasciò ed io mi appoggiai alla battagliola del ponte di comando a guardare fuori. Non osavo alzare gli occhi. Eppure bisognava farlo, né veramente avrei potuto esimermi. Credo che tremassi. Ma appena i miei occhi si posarono sulla mia nave, tutta la paura svanì. Scomparve rapida come un brutto sogno. Ma un sogno non lascia dietro di sé alcun senso di vergogna, mentre io provai una momentanea vergogna per i miei ingiusti sospetti. Sì, eccola lì. La vista dello scafo, dell'attrezzatura, mi colmò di contentezza. Quel senso di inutilità della vita che mi aveva reso tanto irrequieto durante gli ultimi mesi perse la sua amara ragione di essere, la sua malefica influenza, dissolvendosi in un fiotto di gioconda emozione. Vidi alla prima occhiata che era un veliero d'alta classe, una creatura piena di armonia nel garbo slanciato del corpo, nell'altezza ben proporzionata dell'alberatura. Quali ne fossero l'età e le vicende, aveva conservato l'impronta originaria. Era uno di quei bastimenti che, grazie al modo in cui furono progettati e rifiniti, non sembreranno mai vecchi. Tra i suoi compagni ormeggiati alla riva, e tutti più grandi di lui, pareva una creatura di razza superiore, un destriero arabo in una fila di cavalli da tiro. Alle mie spalle una voce disse con tono dispettoso ed ambiguo: «Spero che ne siate soddisfatto, capitano. Non girai nemmeno la testa». Era il comandante del piroscafo e qualunque cosa intendesse dire, qualunque cosa pensasse della mia nave, sapevo che, al pari di alcune rare donne, essa era una di quelle creature la cui sola esistenza basta a suscitare un piacere disinteressato. Si sente che è bello appartenere allo stesso mondo in cui essa è presente. Si irradiava da lei quell'incantevole illusione di vita e di personalità che è propria ai più bei prodotti della mano dell'uomo. Un enorme carico di legno di teak le oscillava sopra il boccaporto, materia inerte che pareva più pesante e massiccia di qualsiasi cosa a bordo. Quando cominciarono ad ammainarlo, mollando il paranco, un fremito le corse dalla linea d'acqua fino alle gallette, su per i nervi sottili dell'attrezzatura, come se fosse rabbrividita al peso. Pareva una crudeltà caricarla così. Mezz'ora più tardi, mettendo piede per la prima volta sulla sua coperta, ne trassi un senso di profonda soddisfazione fisica. Nulla poteva eguagliare la pienezza di quell'istante, la compiutezza ideale di quell'esperienza emotiva che mi era toccata senza la preliminare tribolazione e delusione di un'oscura carriera. Con rapida occhiata la percorsi, l'avvolsi, mi appropriai della forma in cui si concretava il significato astratto del mio comando. In quell'attimo, una quantità di particolari di cui si accorge l'occhio di un marinaio mi colpì vivamente. Peraltro, la vidi come svincolata dalle materiali condizioni della sua esistenza. La riva alla quale si trovava ormeggiata era come se non esistesse. Che cosa mi importava di tutti i paesi del globo? In tutte le parti del mondo bagnate da acque navigabili, il nostro rapporto sarebbe rimasto identico e più intimo di quanto le parole di una lingua non possono esprimere. All'infuori di ciò, qualsiasi scena e qualsiasi episodio sarebbe stato uno spettacolo puramente effimero. La stessa squadra di culis affaccendati intorno al gran boccaporto erano meno consistenti della materia di cui sono fatti i sogni, poiché chi mai andrebbe a sognarsi di cinesi? Andai a poppa Salì sul casseretto, dove, sotto la tenda, luccicavano gli accessori di ottone simili a quelli di uno yacht, le superfici lucide della battagliola, il vetro degli osteriggi. A poppa via, due marinai, intenti a lucidare l'apparato del timone, mentre i riflessi fuggenti della luce giocavano sulle loro schiene curve, continuarono a lavorare, senza accorgersi di me e dello sguardo quasi affettuoso che lanciai loro passando nel dirigermi verso il tambuggio dell'alloggio. Le porte erano spalancate, con i battenti scorrevoli completamente all'indietro. Il gomito della scaletta chiudeva la vista dell'andito. Di sotto saliva un sommesso canterellare a bocca chiusa, ma si interruppe bruscamente al rumore dei miei passi che scendevano. A basso vidi, per prima cosa, la parte superiore del corpo di un uomo che, per così dire, sporgeva all'indietro da una delle porte ai piedi della scaletta. Mi fissava con occhi spalancati e fermi. Teneva in una mano un piatto, nell'altra un tovagliolo. «Sono il vostro nuovo capitano», dissi con calma. In un attimo, in un batter d'occhio, si era sbarazzato di piatto e tovagliolo e balzava ad aprirmi la porta della cabina. Appena entrai nella saletta, egli svanì, ma solo per ricomparire fulmineamente, finendo di abbottonarsi una giacca che aveva indossato con la rapidità di un trasformista di varietà. «Dov'è il primo ufficiale?» chiesi. «In stiva, credo, capitano. L'ho visto andare a basso dal boccaporto di poppa 10 minuti fa. Avvertilo che sono a bordo». La tavola di mogano sotto lo steriggio mandava nella penombra riflessi come in una pozza d'acqua. La credenza, sormontata da un ampio specchio con la cornice dorata, aveva il ripiano di marmo. Su questo una coppia di lampade d'argento placcato con altri oggetti, evidentemente tirati fuori per la sosta in porto. La saletta era tutta rivestita con due qualità di legno, secondo l'ottimo semplice gusto dell'epoca in cui era stata costruita la nave. Sedetti nella poltrona a braccioli a capotavola, la poltrona del capitano, su cui era sospesa una piccola bussola ripetitrice, muto invito e incessante vigilanza. Una serie di uomini si era seduta in quella poltrona. Tale pensiero mi colse a un tratto vivido, come se ognuno di loro avesse lasciato un poco di se stesso tra i quattro muri di quelle paratie così adorne. Come se un'anima composita, l'anima del comando, fosse all'improvviso venuta a parlare sottovoce alla mia di lunghi giorni di mare e di momenti d'ansia. «Anche tu», sembrava dire, «anche tu assaggerai questa pace e questa inquietudine in un vigile contatto col tuo proprio io, oscuro come eravamo noi e come noi supremo di fronte a tutti i venti e a tutti i mari in un'immensità che non riceve impronta, non conserva memoria e non tiene conto delle vite umane». Thank you. Thank you.